numero uno. Con il tuo robot dovrai vincere la Robobot dei Medaro. Non ti fermerai, nel tuo cuore c'è Gari. Non ti fermerai, al tuo fianco avrai Erika e Metalli. Ogni giorno è un giorno nuovo con te. Fight up,